oltre le laser che si trova il baracchino, ti trova il baracchino, vero? Oltre le laser è per la velocità, mica cascherà, mica rifil maracchini a ribendi. Non ti riprende tutto quello che fai. Ma non scherzare. Ma la conosci la legge sulla privacy? Io ti possono riprendere in cabina come pensi tu. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? E vai, guarda, c'è un brodino di mamma. Sì, cucca. E beh già, come stai? Già sto meglio, là. Piano piano mi sto riflendendo. Già, sto già camminando, sto guidando, già. Sto contento a parte, là. Sono un casino, cavolo, un casino. È un casino. Un po' zoppico ancora, ma sto facendo fisioterapia. Normale che fino a 3 mesi, ci vogliono 3 mesi per guarire definitivamente. Vabbè, dai, vabbè, fare fretta, dai. Cioè, guarisci piano piano, così hai anche la possibilità di andare al mare. Beh, certo. Come passano questi cavoli di dolori, sì. Che torniato hai? Cosa? Torniato. No, non ero io. Ah. Stavo dicendo, io cerco questo cavolo di naso, sta andando un bel male. Si sente un po' che sono raffreddato, no? Come si dice? E niente, sto aspettando che mi chiamano, che stanno spesso e volentieri da prendere, ma sembro di morire. Vabbè, chi è Antonio? Antoine, beh. Tornia tu, Antonio. Attrondione. Andiamo a vedere, ma che c'è euro? Bubu, andiamo a magari ti dici dallo microfono oppure da lì. Ah, ecco. E beh, quella cosa fatta vedere gliel'hai. Quella cosa che ce l'hai. Le luci ce le hai fatte accendere, sì. Le cambiate. No, che mi sa che ci sono, mi già. Ma devi solo premere quel pulsantino che c'è attorno davanti. Premi quello e funziona. Allora, forse mancano le batterie, non me lo ricordo. E io là, meglio così. Non ne posso più con questa nave, ci credete, cazzo, non ne posso più. Oh, tu mi hai avuto problemi, hai già, che ti si chiudesse. Pensavo che ci fossero. Ah, tu hai avuto mai problemi che ti si chiudesse, già. Cosa? Ho detto, hai mai avuto problemi che ti si chiudesse il naso? Chiudete. Che si chiude, cazzo, da freddore, però ti dura poco. Cazzo, sono anni così. Io l'ho avuto, ho avuto tosse, raffreddore, tosse da uscirmi negli occhi, raffreddore, mal di gola, oia, ma tanto sì, quando fa soccorso lui, ha detto questo primario degli infettivi, ha detto, sin quando l'influenza fa soccorso non passa, è inutile che spendete i soldi medicinali perché non vi fanno nulla. Già, ma io ho fatto la visita, sono lunedì, ci vado al medico, porto tutto quanto, ho fatto anche l'attacco, cavolo. Praticamente mi hanno messo in lista, come si dice, mi hanno messo in lista per quanto riguarda l'operazione, magando, io andrei anche oggi, adesso, domani, lo farei subito già, non posso stare così. Ma dove, l'ottorino l'ha ingoiata? Beh certo. Praticamente, cosa ti dovrebbero fare esattamente? Parare già. C'ho dei polipi, non polpi no, polipi, poi turbinati e setto deviato. Ah ecco. Ti devono operare al naso, praticamente il setto nasale, eccetera, eccetera. Ho capito. Questi polpi che ti causano l'apnea, così è? No, è che si infiamma, lo fa, guarda, brutto già, brutto, guarda, ma con la peggiore nemico, bruttissimo. Prima no, sì che si chiudeva, ma non andava a prendere, a volte ci sta andando, come di volte, come di notti, casino. Adesso vediamo cosa mi dice. Perché sto facendo cortisone, cavolo, uno spray mi costa 30 euro. Eia. Fammi un cappuccino anche a me già che ci sia. Cazzo, così non posso usare. No, fa mal di testa, non ti dico già, va. Ma solo lo so che è più bello quello che hai avuto tu. No, lo so, vai, questo che dico io che sono anni così. Ti sto male, sono mal di testa, a furia di cose, gli occhi, un casino. Mi guarda, senti, vedi, faccio così, si libera, poi una mano si trova, si richiude di nuovo. Come si apre? Una membrana che apre e chiude, apre e chiude. Tu ti dovresti prendere quello spray che si sputta nel naso, quello lì ti libera il setto nasale, capito? E... no, quello che ho avuto io, Luca, non lo auguro a nessuno, sono dolori atroci, ma cazzo, da non poter sopportare. Lo sai cosa mi veniva? La tremarella dal nervoso, come quando c'hai un'ansia, cazzo, non riesci a risolvere, cazzo, proprio da stare male. Poi non trovavi posizione in nessuna maniera, giravi una parte, giravi all'altra, nessuna posizione, tutte le posizioni ti facevano male. Sì, già, lo metto in dubbio, ma questo qua lo stesso, è brutto, cioè, non sto proprio male, cioè, svegliami di morto, sai, quell'attimo sembra che stai morendo, non respiri più, è un attimo, che ti svegli, boh, non prendi più sonno, brutto, cavolo. Sì, ma quelli che si richiude il naso come te, Luca, già lo sai cosa gli fanno come operazione già. Quello con la patata è uguale. Oh, a quelli come te gliela mettono dietro. Quello con la patata è uguale, non deve venire pure a me, può cuovare. Vai, drogato. È arrivato all'accio, ora deve venire pure a me, sei freddo. Io come ti fa, intanto lo conosco io quello Torino, a tutti ci fa. Brutto porco. Quando li fa l'anestesia totale ne approfitta, così è stato. Oh, senza anestesia, quelli che ci richiude il naso, senza anestesia glielo fa. Oh boh. Vabbè, poi ci sono andati, lì caso Gumacco, ma quello che sto andando, la tariva ti mari, cos'è la Dugussi, tanto per. Io sono buffonendi. Già lo so, questo è un ricordo malissimo. Allora si è passata all'altra sponda. Allora, nella sponda normale, nella sponda idraulica. Ah, ma non lo sapevo io quello. Come sapevo? Mi vuoi una boccata? Vabbè, no, comunque a parte gli scherzi è brutto, va. È brutto, brutto, brutto. Poi c'è un momento che c'è un libro, sto facendo anche la siringa con il coso, no? Con il soluzione fisiologica, un po' aiuta, ma ci vuole un antinfiammatorio. Il cortisone era l'unico un po' che mi aiutava, cazzo, ma costa 30 euro. Casino è lui. Ma da quando l'hai fatta la domanda per il ricovero? Aspetta che prendo il foglio, io ti dico, aspetta. Allora, vediamo un po', dovrebbe essere questo qua. Allora, qua dice, lamenti di moto masculante con respirazione prevalentemente orale. Prevalentemente a sinistra, talora ipoasmia, flussamento saltuario apnee. Lo spray l'ho fatto alla vista il 7 giugno l'anno scorso, intanto pratica terapie con Eltair 100 spray nasale, due puff da una parte, due puff dall'altra per 60 giorni, si inserisce nella lista per FES, qui c'è scritto. Vabbè, ma da quanto tempo è più o meno? Da 2 mesi, 3 mesi che... Non hai fatto per il ricovero, nulla. No, io praticamente questo foglio qua c'è la scritta, aspetta che non lo cerco, dai. Lascia stare, fregata. Io oggi ho lottato la Tarì con la SL e anche col policlinico, una cosa che non si gridi, non si crede, guarda, tutta la mattina e tutta la sera per beccare i libri, 3 ore aspettando, restare in linea per non perdere la priorità, eccetera eccetera, voi mi dite che non ce l'hanno operatori disponibili. Sono stato tutta la mattina e tutta la sera, poi stasera, dopo pranzo, ce l'ho fatta, mi sono praticamente organizzato per la radiografia e la faccia al Conti. Poi ho telefonato al policlinico, il policlinico dopo un bel po' mi ha risposto e mi ha detto che non c'erano posti, che mi dispiaceva, però non c'erano posti. Poi mi ha richiamato la signorina, mi ha detto, ascolti, si è liberato un posto, ho pensato a lei. E ho detto, lei è bravissima. Allora vedi, ho fatto due, e qua dice, allora, questo qua dice, altri polipi, nei semi paranasali, etmodectonia on, pizzetta con polposi nasale più sette deviazione, fresh più setto plastico, plastica. Allora, sicuramente lavorano dalla narice, non ti aprono nemmeno, lavorano da dentro la narice. Oggi però li devono, si stanno perché setto nasale, capito? È deviato. Poi vabbè, questa qua era la prima che ho fatto, l'appuntamento, primo, poi c'era il CD qua, ho fatto l'attacco. Allora, questo qua dovrebbe essere il foglio, dici, no, questo qua neanche, io lo porto dal medico, sarà lui, mi dirà lui cosa fare. E appunto, non ti labitare il cervello adesso. Ma posso stare uscito già, assolutamente. Ma i tempi sono lunghi, la sanità è un casino adesso, capito? Io te lo stavo dicendo a Natalino, poi non mi ha risposto, forse non c'era, che sono stato tutta la mattina e tutta la sera per prendere due appuntamenti, uno per fare la lastra alla gamba e la seconda per fare la visita ortopedica. Ci sono stato tutta la mattina e tutta la sera. Ma non mi interessa, cioè, una volta che a me poi mi fanno l'operazione, non lo fare adesso, capito? Poi ce ne sono tanti, dottor Mele, vedi, medici specializzati, dottoressa Longoni, Muretti, Turra, Troppiano, casino. Ma domani chiamo? Chiamo che già chiamato, sono vicino di là, non me ne frega niente. Ma certo, questo qua non è per ricovero, me l'ho messo in lista, pagandomi già male, non può ripassare anni. Cazzo, non penso ci siano più gravi di me, io sto lavorando me male, l'altra volta sto lavorando me male, cioè male. Sono dei momenti che respiro anche male, anche in giornata, non riesco proprio a respirare bene. Tu li devi assillare come ho fatto io. E mi hanno detto, guardi, adesso vediamo se riusciamo a metterla in mezzo, e poi alla fine mi hanno avvisato che mi operavano il sì. Guarda, tutto bene, non ho sentito niente. No, perché io ho voluto l'anestesia totale. Mi volevano fare quella, diciamo, la pilulare, dai. Te la stavo telefonando. Locale. Mi stanno chiamando, ma non spammo, deve essere. Locale. Sì, già, sai cos'è? Il discorso è che è un casino. Tanto io ho fatto già due visite. Ora lo parliamo dalla schiena, ma comunque messo male. Se mi sono lavoro, non posso manco andare, posso fare lavori leggeri, tipo se ti posso ripiazzare un'antenna, che mi è leggero, non posso andare a fare maniari, che ne stanno cercando ma non vale, mi qua a Sassari, ma non ce la faccio, cosa vado a fare molte figure, non me la posso. E l'altro riprende, niente figura chissà, è un pensierino, là, come si addormenta invece di romperti le scatole, è vero, lo sa. Ciao Sara. No, a me mi devi salutare separatamente. Beh, una volta. Tanto va bene, mi ascolti casa tua, sì, arrivo bene. Va bene, dai. Cioè sicuramente è più forte, perché io c'ho l'intenda superiore. Gianni, avanti chi chiama? Buonasera a tutti. Caspita, non so io. Ti farò una giubbocciumare. I polpi te ne tolgono. Meglio non lascio che assolto. Dopo li mandate i polpi, ti rivai agli anda. Devo andiamo. Te già, vabbè che contento. Ehi, hai detto meglio non lascio che asso. Ah, è pagissimo se sarà, davvero, dopo ci fiaccate. Ma Tattarino che fine ha fatto? Tattarino ha fatto cucù e se n'è andato. Ma sono qua, sto facendo cosa? Tattarino. magari è andata a farsi un tiro di coso, di quella cosa, della mamma. Ce l'ha vicino. Sì, io c'ho il negro che mi si avvicina e mi dice ce ne voglio, bamba. Ma mamma è o salita? Mamma ha detto che... Dì la verità che qualche volta te l'è fatta la mamma. Sì, Natalino, ehi, ma il cuoco, vale. Io sono bravo, ho visto sto ponte con... col galleggiante l'osso da bagno e mi ho piccato dal braccio. Prova a ridare. E lì è tutta zona così, Sì, sono tutti spacciatori. Ma così è. Prova a ridare. Chi era questa risata sarcastica? Sono due la vista. Buonasera, amico. E beh, ciao. Ciao, Tatalino pure. Ciao, Tonia, che mi torna chi c'è. Cani fammi denni mare di demmi. E benissimo, ma ha suonato la Recci, hai fatto già risciare, senti, amico. Capito, ma te dici bruciani la Recci. E beh, chi c'era già nel suo vogliato? Ti ha detto me, oggi Tonino non mi ha abitato ripassi, per prendere quella crema. Surai. Ah, Gianni, vediamo come ti ribruciano le Recci. E allora? No, guardate, mi bruciano, non bruciano. Che ha detto di bruciano? Voglio fare una domanda. Dunque, oh, non me la metto per dico. Peggio di me sei di ventenni, mi. Ma no, Natalino non c'è. Già ci sono, non ci fa vintare, Tony. Sono loro che non mi vogliono far parlare. Mi hanno detto che sono cuocuomane. Mi, quel Luca è mi. Mi ha detto che sono cuocuomane. Oh Luca, te posso fare una domanda? Dimmi, dimmi. Il computer è nel registro? Io sempre, io lavoro, faccio quel lavoro lì. C'è polizia, perché c'è un casino. Sempre. Ok. Quando è che posso portarti? Quando vuoi, anche domani sono a casa io. E dove? Al monte? Sempre al monte, sì, sempre al solito posto. Vabbè, dove c'è l'antenna, ci ho preso. Non so dove è il portone, comunque. A 19, non ne ho problemi. Via Corceo 19, non ho problemi. Vabbè, dai, ok. Ma Mazzano c'era? No, domattina, se non ci sono dalla mia compagna. Ok, va bene. Anch'io ho provato, non ci sono riuscito, che è un casino. Ma cos'è, Windows 10, Windows 7, cos'è? Ma è Windows o Vista, è quello grande, importante lì. Ah, Vista, è un po' vecchiotto il computer, sì, si può fare. E tu usa pure Windows 7 e Windows 10, perché se è un PC vecchio li metti 10 e va lento, Cioè, cosa bisogna fare, non ci ho preso? Allora, questi computer vecchi, se li metti un SSD e li metti 10, può anche andare. Ma io ti consiglio di mettere il 7, perché il 7 che ho io fa gli aggiornamenti, cioè glieli faccio fare io, perché ho un programma, allora, mi sa che li fa fino al 2025. Cioè, va bene, allora facciamo Windows 7, come vuoi, giustamente, io non me ne intendo. Sì, Windows 7 con la licenza, sì, a me dopo che l'ho messo a posto Emanuele. Sì, l'ho messo il manuale, quello è più vecchio del mio però. Allora, se è più vecchio del tuo, tu fa molto meglio. Il mio è per molto più recente. E io sono sempre a casa, cioè sempre a casa, la mattina mi trovi a casa. Ma domani mattina, vabbè, devo andare un attimino in via Mello, a fare una commissione, poi se torno a casa. E verso mezzogiorno vado via, anche prima. Perché devo scendere giù dalla mia compagna e vado a preparare il pranzo, se no non mangio. Aspetta Luca, che se mi portano prima la macchina è bene, se no sono rapidi, è un casino. Gianni più o meno ha capito dove è la macchina mia. Vabbè, purtroppo oggi giovedì non mi posso fare nulla. Oh, Lu, se a caso non mi portano prima la macchina, il telefono e facciamo dopo domani. No problema, è sempre di mattina. Dopodomani, sabato, lunedì, quando vuoi, sempre di mattina. Eia, va bene, dai, ok, già te lo posso sapere. Avanti Gianni, purtroppo è così, il giovedì. Doppio RU. Marca il computer. Ah? E marca il computer. Acer. Ciao, ok. È nero, bello grande. Sì, io ce l'avevo lo stesso, grande, si è bruciato, l'ultima volta di domani. Infatti se mi sono preso un HP usato, un i3 di processore, io ho aumentato il RAM da 8 a 12 giga, l'ho portato, e più la SSD ho messo come hard disk, non è meccanizzato, allo stato solido, è una bombetta, va benissimo, Windows 10. Vabbè, questo è così, quindi io non posso ottenere. Action, poi gli amici parcheggio poi si incavolano. Avanti, sotto chi tocca. Ma tu ti mando a Dozzane. Nata lì. Ui. Riprende, a Giovanagiane, Marco Ripuso. E evidentemente si è spostato, anch'io poco fa mi sono spostato, stavo facendo cosa. Capito? Oh signore, e Luca mi già lo sa fare a formattare tutto. Lo so per quello che te l'ho detto. Antonio, ripeti. Antonio, ok, va bene. Ok, dai, avanti Luca. Io vi aspetto una mezz'oretta, dai, arrivo subito. 20 minuti, arrivo subito. Ok. Gianni, ce l'hai tratta. Natali, in due ci vuole mai. E allora, prima ci seducono e poi ci abbandonano, che? Te l'ho detto, no, non c'è nessuno. Bisogna andare, c'è stata di nuda. Mi c'era Salvatore, forse era Salvatore sotto. Salvatore, tu sei? Sì, già so io. Mi sono sentato un attimino che era al telefono. Ciao, Tore. Ma con Giambio che verrà detto. Penso a po'. Avete parlato il due. Ah, che bello. A giudizio, Vittore, era innamorando al telefono e pagisso che non rispondiamo. Ah, dicici. Oh, era mia figliura, Ida. Ma, Ottore, come ti vai a fare due antenne ed una? Che una è quella dai 40, anzi, dagli 80 ai 6 metri. Sì, ma quest'estate la devo tornare a mettere a posto. E io ho pensato, prima chizzo, ma una per trasmettere la devo ascoltare. Oh, quella nera è quella della 27, l'altra è quella dagli 80 ai 6 metri. Sì, già la conosco quella nera. E infatti ho pensato perché era sulla tua frequenza, giustamente. È leggermente più distante dall'altra, non sono molto vicini. Che si sono spostate per il vento, per girarli, mi era puntati verso ottava, mi era puntati. Ah, sarà 2-3 metri, penso, però vabbè, dalla strada non è che lo vedi la distanza una e l'altra, però non sono molto vicini, ma sarà 2 metri. No, se no saranno 60 centimetri una dall'altra, è il vento che me l'ha spostata, me l'ha cuccata in più. No, ma è più distante, non è che attiva con la visuale. Avanti, Natalie. Oh yeah. Io ce l'ho qua la multibanda, anzi ne ho due, una pure per il tetto, solo che non ne ho piazzata. Me l'avevo costruita, però Nisba, tanto non me ne faccio nulla. Io ho quella per il MR. Poi c'è quell'altra che ti ho accennato, le due, te la conosci. Era solo per ricevere però, che c'è tutti i radarini piccolini in giro, orizzontali, e gli altri che scendono in verticale, in giù. Sono un po' di radiali. E poi c'è un'altra specie mini Grand Prix, però sempre per MR. E poi c'è anche un bazooka. Che bazooka è appoggiato alla macchina e ci ha cazzo tutto. Ehi, ce l'ho anch'io una bazooka. Comunque, io mi sto cucinando un bel minestrone di verdure. E anche io oggi c'avevo quello, e ho fatto anche le polpette al sugo. Buone. Tutte Natalina mangia io le polpette. O sei tutte mangiate già? Ehi, tutte mangiate, me le a mezzogiorno. No, ma alcune se ne rimangono. Via da Edu. E invece a me mi è toccato qualche fettina e buh. E allora fate monello. E oggi mi hanno fatto fare un giro di banca. e basta. Riesci a vedere se c'è qualche persona in ascolto? Attenzione, Emanuele. Ma che da quella piazzetta. Se c'entra, entra verso le 7:30, entra. E perché alle 7:30 proprio? Chi si stessi, Edu, dopo rientra a chiusura. No, che okay, lui sta ancora lavorando a casa sua. Che le ha dato qualcosa, le ha dato, sta c'è riuscito a prendersela con l'amico suo, quindi sarà ancora piazzata. Ma di questo non ne so nulla io, è il mio vicino quasi. È il tuo vicino, ma era qua stasera. E anche mio figlio si è goduto di tutto, ha detto, e quindi. Andiamo, beh, andiamo. Natali, ma ancora andiamo che ci stanno. Tu andare ci vuoi? Sì, iniziaci. Informati a vedere se inizia e quando inizia. Al limite andiamo, cosa vuoi ti dica? Tanto se lo fanno online lo faccio anch'io, se no se andare giù non ci vado. Se ti porto io? Neanche se mi porti tu, perché devi stare 5 ore chiuso lì, capito? Non ci vadono. Oh, Natalia, a cavallino lo deve portare. Ehi, non mi porta a cavallino, però io non ho intenzione di andarci lì. Cosa me ne affutti? Se anda, anda, chi sa usa, tanto è online. Se non anda, si rampa tutto e via. Cioè, si rampa tutto. Non mi compare giù nulla e boh, e lascio perdere, rimango qua. Ma a Charlie Alfa, Natalia? Sì. Mamma mia, in mezzo ai mau mau. No, ma poi è brutto perché lì sono 60 domande quando lo fanno di presenza, c'è il compito, poi cazzo devi stare in cuore da raggio in chivi, beh, no, no. Compito non ce n'è, compito non ne fanno fare più, ci sono solo le domande e basta. Ha giudito che aveva un circuito, Buru, che io ci sono già andato 3 volte, quindi lo so. Oltre alle domande c'è anche un circuito da eseguire. No, non lo fanno fare più, no. Lo so perché me l'ha detto la signora, me l'ha detto. E non lo fanno fare più il circuito. Fanno solo le domande con il quiz e basta. Aspetta che giro il minestrone. E vabbè, sarà così. Tanto Burisso, so 60 domande, so. Lo so, 5 minuti come te che andai online, capito? Oh, Burgo, vedi che vè, non ne vaderà nemmeno in presenza, beh, su io. No, a ottobre sono, quelle sono a ottobre. Fanno fare a ottobre. Ma c'è il Covid, non ne fanno fare più in presenza. Non puoi stare 5 ore chiuso lì. Sì, adesso vediamo come... Lo vediamo come... Tanto, ma quella cosa lì, sono riuscito a trovarlo, me lo sto guardando. Non lo so. E più sono entrato anche dove ci sono i quiz che ha detto lui. Ho capito. Se venivi qua io te lo davo. Ho già l'ho trovato, Natali, l'ho trovato, ce l'ho nel tablet e ce l'ho segnato. Sì, ok. Io non ho studiato più nulla, mi sono, guarda, scoglionato proprio. Se riprendono i corsi vado, altrimenti boh, studio da lì e mi presento senza fare il corso. Se non ne fanno corsi, studierò da lì, da dove sei tu. Ebbene, lo si può fare fuori dall'isola? Dove vuoi lo puoi fare. Ma quindi quando sai c'è il corso, per esempio a Roma, io vado a Roma, a Torino vado a Torino. Ma bisogna vedere, devi avere un motivo valido per poterlo fare fuori. Se non hai la residenza là, non te lo fanno fare, capito? E capita. Next 16 mesi sto lavorando qua. Purtroppo è così. Capito. Comunque se non fanno i corsi io faccio così, studio da un link che c'ho, c'è un radioamatore che spiega tutto via internet, mi ti fai a maggio giugno sei pronto. E stampa i primi di aprile la chiamo la signora e glielo dico, fa vedere, non me lo dizzerà, ci avviserà lei anche. No, ti arriva la lettera, quando tu l'importante è che entro il 30 aprile arrivi la domanda là. Capito, deve arrivare la domanda anche da entro il 30 aprile. Da poi, quando uso la data degli esami, ti arriva la lettera a casa o l'email, ti mandano. Ma ti hanno fatto l'ambasciato che ti hanno mandato un'email. Infatti, basta scriverli nella domanda l'email e ti mandano l'email loro. Non c'è problema. Già chiamo Antonio, nel corso del radioamatori chiamo. Me lo faccio dire a vedere se lo fa o no. E così poi me lo dici, Salvato. Se lo fanno, andiamo e frequentiamo. E intanto studiamo anche da là, da dove sei. E infatti, voto così fermo. Fermo così e a romanco vi dimmo, vedi? Se riesci mai usciti, che sanno? Perché una volta alla settimana non basta, Poi non siamo arrivati neanche alla conclusione del corso, non fa, perché fanno troppe pause, capito? Quindi è meglio studiare anche da lì, da dove sei. Sì, infatti, ogni mattina lo sto mettendo e già che già arrivato al sesto. Basta mezz'ora al giorno, non ti rabbiglia a canito, mezz'ora al giorno basta, una lezione al giorno fai, perché sennò dopo non ti ricordi più un cazzo. Devi fare una lezione al giorno e smetti. L'indomani un'altra lezione, così bisogna fare. A quando a giugno ce n'è tempo, giugno, luglio lo faranno. Infatti sto facendo così, una lezione al giorno mi sto facendo, una mezz'ora e boom, no, non ci conviene di più. E adesso inizierò pure io. Tu informati se lo fanno il corso, andiamo anche per essere iscritti all'Ari che ti aiutano di più, mi. E tanto bisogna, quando scadeva il corso, a giugno scadeva. Quando abbiamo pagato a giugno scadeva. No, è già scaduto a dicembre, ci toccherà tornare a pagare. Non penso no, che quello dura un anno d'una la cosa. A te se la dura un anno. Ma non lo so, ci informiamo, però mi sa che tu ci tocca tornare a pagare. Se tu dobbiamo tornare a pagare, paghiamo, se no non sarà neanche di un anno. Infatti non ti fanno né ricco né povero, Salvato. Infatti è così, vabbè, non sarà così. Avanti Tonino deve darsi andato a mangiarsi un minestrone. A Girassilu è andato, ci si recusinendi, compreso dai. Compreso, se l'ha andata a Girassilu. Se la farà girare dopo l'altra cosa. Giulia, andiamo. Tanto mi se tutto va bene siamo rovinati tu. Il nostro cuba cosa. Il coso, ho telefonato mi a quel medico. Me l'ha dato il 3 aprile, me l'ha dato. Se si libera qualche altro posto, ma è perché mi chiama. E se te l'ho detto a fare così? Perché se no non i capi bevi. Io devo andare alle 17 a Platamona a fare il secco Doppler. Meno male che ho avuto fortuna e me l'hanno prenotato per il giorno 17. Ma sai quando ce l'ho io quello? Ah? Al 31 agosto. Tanto qua è che devo andare a fare la visita tu. Io devo andare a luglio, fatti un conto. Scusate, io mi sono spostato perché ho avuto una chiamata urgente. Ia, facciamo così. No, io ci devo andare alla visita il 26 marzo. A futidini. canto diranno i prenotati tanti rubai su chi sa fare. Io mi ragionavo di 17. Ando a Platamona e mi rubo. Natali, oh, dimmi Tony. Non so che mi ha telefonato. Ah boh, non lo so. L'avvocato, ma che cosa sta muovendo? Il 23 devo andare dal medico legale, portare tutti i documenti e così mi pagano l'assicurazione. Oh, che bello, quanto sono contento qua. Sì, una volta, Doni. Dai, ti vediamo a metà cena, ti vediamo, alla faccia dei disgraziati. Sì, andate. No problem. Ma ho domandato la cartella clinica, io non ce l'ho già alla nazionale, fammela fare. Ma detto, se non lo danno per entro il 23, me lo dica che sposto l'appuntamento, vabbè, non c'è problema. Sì, la fotocopia mi fai e te ne dirà la cartella clinica. Allora gli devi dare la fotocopia, non l'originale, quella che ti dà all'ospedale, tienitela mi. Sì, ma lui vuole l'originale più le fotocopie. Poi mi dà l'originale almeno si tiene la fotocopia. Però, allora io ti spiego una cosa. L'anno scorso sono andato a operarmi, le reti, ho avuto due operazioni praticamente. La prima operazione era una cazzata. 3-4 giorni e sono andato via. Ho chiesto la cartella clinica. E praticamente mi ha dato quasi un libro, mi ha rivisto. E se io che ho cercato di comprare un po' di tempo, cosa mi dati? Una valigia? Purtroppo ci sono tutti i parametri, tutte le cose. Segnano tutto giorno per giorno nella cartella clinica, capito l'hai Tony? Molte volte sono spesse per quello. Io ne ho due in sospeso che devo ritirare dal policlinico e una all'ospedale. Prezzo, finaggio di ritirare. Se io ho ritirato tutti i documenti all'ospedale, però ci vuole la cartella clinica, devo fare fotocopia. Io ce l'ho stampata quanto, ma io vado direttamente a voi, me la posso fare, perché io poi mi consumo tutto l'inchiostro, il capita, e poi la cartella clinica saranno già in un blocco, capito? Lo do alla casa libreria, me l'ha fatto loro. Comunque penso che costerà solo 50 euro meno la cartella clinica, da lì. Ma non lo so, comunque fatti i vari fotocopi, tu li vai a vedere chi sei originale e vedrà che li fotocopi a Eddie. Eia, proprio ci stavo pensando, perché sai quando si scende chi ha chiamato, ui, che bello, quando mi ha chiamato, oh via, si segna senza tutto quanto il litro legale, perché c'è un'altra assicurazione, e quello che mi deve pagare praticamente, poi l'orario, il giorno, tutto quanto, e voglio la cartella clinica, e vabbè, andrà bene, poi mi faccio sapere se, non so se me la danno subito a questa cartella clinica, perché devo richiedere. Infatti, se ti dicono che ci danno altri tabù di 23, avresti a chi tu chi sposta l'appuntamento, perché quella gliela devi dare, se no ti pagano. Lo so, mica sono comodità mia, perché se uno ti chiede a chiedere una cartella clinica, mi basta un po' di nuovo di lì, perché lo so, 23 vicino a me. Quindi. Va bene, dai, sono ancora in faccia, sono proprio contento qua. Avanti, Tom. Sì, 20 centesimi a foglio, di fotocopia. Io qua ne ho 1500 foglie, perché ce l'ho stampata nuova, me le potrei fare io. Ma se non l'hai già cucita libera, come ti me l'hai dato quello di Lugo, a Ravenna, e capita, non posso disfarlo io. Non te le fare tu lì, se ne che sono uno o due andare, ma se sono meno non conviene. Avete parlato in due comunque, la carità dicendo, ma già ti ho capito. Andare alla cartoleria da Giudizio, non ne va tu, o sai chi sbaglia che cosa, invece alla cartoleria andi e ti rifatti nei commenti devi essere fatti. Sì, perché se c'è davanti e dietro a me, ogni volta posso davanti e dietro, mi c'è l'inglese, questo da lì, un casino. Sì, faccio fare il cazzo di libellino, faccio fare. Tanto adesso non è 40 foglie, 50, non lo so, poi dice che è andare. Se no ti griba burro la stampante, non è fatta per fare tante fotocopie la stampante. Ci vuole il fotocopiatore, ci vuole. Una volta che è fatto con la fotocopiatrice, sei tranquillo. E poi sono di mestiere e loro te la fanno bene, le copie della cartella clinica. Si ribonano in fila e tutto. La cava Eddie. perché se no ci rimetti pure la stampante se vai a farle tu, se sono tanti fogli. Sì, ma loro hanno quelle macchine grandi grandi, io vado sempre quello che c'è la veloce, prima del Barsanna, tu lo conosci tu, sono le scaline, sale su, e sempre lì sono andato, grazie a Dio. Sì che le conosco, tutti e due, la cartoliglia e vicendaria. E comunque sono tre scaline qua, tu sale su. Non sono in gamba, sono simpatico con le persone, che gentili, la verità, io ogni volta devo fare cose, sempre lì sono andato, ho fatto la pensione, ho fatto coppie, chiede che tanto, sempre lì sono andato. Sì, anche così ho fatto lì, anche la tessera in coso me la sono fatta fare, lì, direttamente. Se mi va a fare il tutto vado. Sì, poi c'è quelle stampate, ne ha due, fare grande grande con anche stampatrici. E poi avevo facevo anche cose, il PEC si chiama PEC. Quando mandavo anche per il Forno Forte che doveva mandarmi soldi, io versavo anche lì, versavo anche tutto loro mi hanno fatto, grazie a Dio. E io spedivo in pace, cioè loro spedivano in pace, c'erano le coppie. Poi telefonavo dopo una settimana, sì, è arrivato, sto a posto, sì. Ma a proposito, ma è Gianni, non è più entrato? No, negativo. Prova a chiamarlo se magari ha avuto qualche problema. Allora, chi tu vuole già magnetemi? Ah tu, piano mi, facci piano. Dai, una girata e una magnata, così diteli. Chi cucina mangia sempre più meglio di quello che è a tavola. Okay. Andù, mi dici che carri di cavallo, mandate una durata, bummi. Aspetta, riprendi che chiamava Gianni un attimino, riprendete. Vero Salvatò. Sì, così è, bisogna far così. E allora, uiaia. Anda bene Meda, e che ora è? Cazzo, le 7 meno un quarto sono già. C'ho meno 10, ciao. Meno 10 voglio dire, ma il rincoglionimento, cazzo, sto diventando rincoglionito, mito. Chissà di passì, la vecchiaia, che carogna, cazzo. La me. Cucine, purtroppo non si può far nulla. Ma su quello è poco ma sicuro. A proposito, saluta Maggio Maria, non l'ho più sentito io, gatta. A chi bisogna entrare? In Duganari. E purtroppo io mangio presto e mi viene male, quando c'è lui. Ma babbo è dell'Usarudu. A risette un quarto entra. E saluta a Miru. Ci so con un bel, non l'intendo. Eia, eia, fermo così, fermo. Adesso fra un po' me la chiudo perché sarà arrivando la 50 qua e cominciamo a preparare qualcosa da mettere sotto i denti. Gianni non risponde. Ah, Uduga, che problema, Tony? E beh, senz'altro non può rispondere, lo chiamerò più tardi al limite. Tutto qua, non vado a continuare a chiamarlo oltre perché se non è sposto lo dice si è spostato Romeo e sta facendo cose, non può rispondere, quindi il motivo ci sarà. E infatti ho due che problema sicuramente. Allora, poi qui arrivi la 50 qua e prepariamo qualcosa da mettere sotto i denti. Mi sta tu, sono già rostretto, ragazzi. Dore, tu ci mi vicino da tu, che passa e mangia brutto. Sì, io devo agitare che mi chiami la signora, andare a pigliare, che da me figliura. Quindi devo agitare che mi chiami. E quindi niente, se no non hai maturato 50, quindi assolutamente. Appunto, ragione per cui, è già mia, tu è già così, quindi è arroscente. E via da Edo. Già dai, dovrò fare, io non posso fare i nomi. Io ce la posso fare, che c'è il cortile qua, sono in campagna e poi non da fastidio nessuno. Sì, meglio così. Meglio così, una volta lo fa zia. Poi invece non posso fare più nulla. Andrà bene. Oh, che bella questa telefonata che ho ricevuto. Guarda, sono troppo felice, che meno male. Sì, è ormai che è finita. E ti naffutti. Lo non sei uscito il finale Nazarì. Sì, ma proprio qua, anche stamattina, con il signor Vittorio che è vicino a me qua, e sto parlando, mi ha detto, cose lunghe sono, ha detto, non penso proprio, no. E invece mi ha chiamato l'avvocato qua. Meglio così. E beh, certo. Insomma, ce ne manca tre. Dai, dai. Che tu dici? Meglio in tre che in 50. Perciò 50 quando rilasciate sei già a prendere un bigiolino. Poca gente meglio fessa. Infatti è così. È così che si fa. Ah, vabbè. Io sento già il profumo del salsiccione, mi ha messo Antonio. Dati no, ci rivendo un fumo in occhi. Ma ti arrivendo un fumo in TV. Tu via qui solo se la rivendi. E anche l'odore del fumo del salsiccione. L'odore si sente, bello profumato, che bello. Poi si anda via con te per lugani. Finta arrivo alla graviglia. Sai come ti hanno fatto i nostri vicini? Si sono portati a fare arrucci, passato l'ugane e ha pigliato tutto da nata a griglia. Vabbè, ho come il mio cognato ad Africa a poche d'ora, a Marai, adesso le luci gialle, a Totani. Quasi a Pechendi, le monie vengono a Rocca, ci girava per non avere un pesce, poi c'è la bizzarra della Iatta, per avere mocca corrente. Vieni qua e ci siamo venuti subito alla Iatta. Sta portando via tutto. Oh, Giulia. Natali, ripeti. Ero al telefono con la 50, non avevo ripreso per quello. Tony. Non mi capa. Non va bene. E si può a telefonare anche a mia figlia, aveva una notizia bella. E anzi, se gli va dopo, dici a me cosa mi dici? No, Tonino, non dico da nessuno, vatti a fare dove, che se no pretendi, mica. Mio figliolo me l'ha già detto, già avevo cosa malata, mi compri la macchinetta. La macchinetta? Ehi, prima voleva la 500 uova, poi ha visto la capitura, non ha visto la capitura, ogni tanto vedo la macchina che rimbiazzi, ha detto, fa una cosa, rimane che io con la pedovia che è meglio. Hai capito? Subito, oh, io. Avanti. Buonasera a tutti, Riccardo, alfa 21 a questa parte. Ciao Riccardi, mi hai sentito? Avanti da Tavì. Beh, Riccardino, buonasera. Ciao Natalì, era un po' che non ti sento, come va? Sì, già fa meglio Riccardo, già fa meglio, dai. Buona, ho capito, meglio. Avanti Torre Squalos. Sì. Ciao Riccardì, ben sentito dopo di tanto. Ciao Tò, grazie, aspettiamo, buonasera, come mangiate a tutti, adesso ho acceso da poco, non so chi c'è. C'è frequenza, voi tre sono da parte. Ne eravamo tanti, ci sono rimasti tre, poverini. Uno ci ha messo a rostire. L'altro è sparito senza dire niente. E poi l'altro è sparito. Uno con X, l'altro rosso. Ho capito, sta facendo sera ed è che. Infatti me l'avevi detto che dalle 5 più che altro inizia a batte, poi però sono tornato tardi a casa, quindi sono riuscito a andare solo adesso. Beh, già c'è più qualcuno, non preoccuparti. Vabbè, Natalia, riprendi. E cappa. E infatti, fino alle 7:30 già trovi gente, anche 8, anche verso le 8, se si trattengono già ce n'è gente. Come ha iniziato il suo frequenzimetro, un po' fa i numeri sballati, poi me lo dà perfetto. Non siamo veloci per questa cosa. Se mi sarà pigliata la bronodottera, Tony. La bronodottera? Cos'è questa cosa? E ogni data che si frequenzimetri si ripiglia la bronodottera e comincia a badare. Carità. No, c'è i numeri strani, compreso. Essere messo a posto 27.075. Allora 075 siamo. Certo, 27.075. K. E allora dici. Oh, un attimo che mi giro il minestrone. Riprendi i ricapiti. Sì, famiglia. Ho capito. E niente, vabbè, dai, io già arrivo un attimo in ascolto, che mi finisco di sistemare con la postazione, che devo spostare un attimo tutti gli apparati, perché non so, ti volevo anche provare un po' se riesco, se c'è ancora qualcuno, tra un po' li provo. E ok, buon ascolto. Allora, Riccardi, ci sentiamo alle prossime, avanti tu. Buon ascolto. Allora, ci risentiremo più avanti. Ok, ecco, preso una talì, facciamo così, facciamo brecche avanti, brecche, buonasera, avanti. Ok, ciao Tore, ciao Natalino, ciao Antonino e poi Robertino, ciao Robertino, sempre io da questa parte, avanti Natalino. Ciao Giulio, Riccardino si chiama, non Robertino, Riccardino si chiama. Buonasera, ben entrato Giulio, avanti. Ok, sì, e io lo confondo sempre, le cambio sempre il nome, da qualche anno le cambiamo sempre il nome. Ciao Riccardino, come va? Sto bene, io sono qui in ascolto, era un po' sentito a te Giulio, non ti sento, comunque è ben sentito. Vabbè, Riccardi, io sono invecchiato ormai, ogni tanto mi viene la voglia di entrare in frequenza, ma diciamo che la mia parte l'ho già fatta per 50 anni e oltre, per cui va bene così, riprendi ancora. Ho capito, vabbè, anche io già, che non stavo, anche io ero che non stavo entrando, un po' per la scuola, un po' per tutto, infatti niente, e quindi adesso questi giorni, che dopo le vacanze, tra un po' iniziano le verifiche, infatti magari un po' mollo, ma già riprendo. Beh, certo che sì, tu già ne hai tempo, non è un problema, poi quello. Vabbè, dai, comunque mi fa piacere riascoltarti dopo qualche annetto, forse due. Va bene, vai Tore. E buonasera, Giulio. E ben sentito, dopo di tanto. Come ti ho detto, non è che ne ho molta voglia, lo sai come. La vecchiaia è carogna, per cui bisogna andarci piano e fare quel che si può. Confermi? Sì, Susi. Infatti è così, si può fare quello che si può, se non viene gana, non viene gana. Quindi meglio mi sa prima alla gana da voi, se bene, si sta, se no rimane in quel ritiro. Ciao Giulio, ben sentito, io sono andato a girare il minestrone. Cosa è successo? Riccardino c'è sempre, sì? Sì, ciao Tony, ben ascoltato. Sì, io poc'anzi ti ho salutato, non so se mi hai ascoltato, ma tu avevi staccato probabilmente, per cui è quello il problema, che non ci siamo sentiti un po' prima, dai, riprendi. Capo, no, sono andato, ho chiesto anche agli amici, vado a girare il minestrone, poi farò un giro, c'è un bel minestrone di verdure, quindi ho voglia di roba liquida, basta con la roba fatta asciutta qua, cosa, basta. Come mangi carne asciutta come pollo, come insomma, che fine, ti scuccia, che mangi tacchino, insomma, qualcosa di provo ci vuole, magari. A me piace troppo il minestrone. Bene, veda, Riccardino, infatti vi ho sentito da cucina, però non ho capito bene se Riccardino ti faceva quel X o rimaneva un po' in vuota, non ho capito. Ha detto che faceva QRX perché sta spostando della roba nella postazione, quindi non è che possa entrare a modulare, ha detto che già ci ascolta comunque. Ok, allora buon QRX Riccardino, speriamo che non sposta la roba con la carriola come facciamo una volta. Okay. Bene, veda, ok, avanti Vittore. E io ne approfitto che vi dà su. Facciamo una signora, tra 20 minuti andare a pigliare, quindi vi lascio per il momento. Ciao Tonino, ciao Natalino, ciao mamma 4 Giulio. Sì, infatti Giulio, va benissimo, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Tore, buon corretti, ciao Tore, ci sentiamo, avanti giù. Ok, ciao Tore, salutami Gio Maria se hai modo di sentirlo dopo, che sono da un po' di tempo senza ascoltarlo. Vabbè, io per questo sto entrando un po' che niente, come come ho detto poc'anzi, la vecchiaia Carogna, Tony, purtroppo è così. Ah, io ce l'ho mica mai, ho fatto parte col diavolo, quindi rimango sempre come prima. Io ho visto persone dopo 40 anni, ma ho detto sì, sembra una fesce, per forza, ci ho fatto la prima con il diavolo. Avanti, Datari. Ciao Salvatore, grazie per essere entrato a fare queste due chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, fammi sapere per quella roba, informati. Ci sentiamo alle prossime, dai, avanti Tony. Hai tutto calpestato Giulio? No, ho capito lui, ho detto Giulio, ho capito solo a te, sai per lì, me, involontariamente mi siete sempre un po' polacchi. Sì, scusate, sì, stavo dicendo, passami il progetto allora anche a me, così lo faccio anch'io quell'accordo che hai detto tu. Ma devi farlo da prima giù, adesso è troppo tardi, adesso è già più vecchietto. Il diavolo non le vuole persone già di una certa età, le vuole per dei giovani più infanti, io l'accordo l'ho fatto quando avevo 45 anni. Ah beh, allora è diverso il discorso, vabbè, pazienza, dai, vuol dire che sono arrivato in ritardo, va bene, ok, avanti Natali. A te l'immagini Giulio, hai su Donino, se ti senti che siamo vecchi, mi. No, io non ho chiesto niente a te, cacci me che male sente da lì, io a te lo faccio tenuta. Va bene che tu ormai lo puoi fare, devi fare 45 anni, adesso mi hai cessato in faccia, quindi anche tu sei un po' vecchiarello. Vedi, è per quello che l'ho detto, perché anche io ho la mia età e quindi tu ci hai dato del vecchio.